Metti un semino selezionato, germina, nasce una pianta sensazionale, femmina, cime rigogliose cristalline, rime religiose come concime per fiorire, sacrilega ganja per la cattolica Italia, bigotte riluttante all'erba rilassante, favorisce un black market che in Olanda è legale e tollerato, tassato e regolato, alcune hanno gusto fruttato, la New York Diesel sa di mirtillo, Jack R. Arnello, spliff storica, ad alto tasso di THC, poi c'è l'allegria, la White Widow, Silver Hazel, amnesia, tante specie diverse, come i fumi che assaporo, Charas, Manali e Polline Oro, Charas, Manali e Polline Oro, oh! Al microscopio riconosco la purezza, la lavorazione raffinata e la selezione. Mi prendo una pausa e faccio su un cannone. Dopo cena, merenda e colazione. Ma sono al coffee shop e non al bar della stazione. In Italia è ora che si parli di legalizzazione, che si limiti lo spaccio alimentando l'autoproduzione, cancellando truffe e contraffazione. Mangia bene all'italiana, vai di cucina sana e fa un bel joint di marijuana. C'erano grossi campi di canapa indiana e tutta quanta la penisola italiana, sempre più richiesta nel mercato tessile, e in più la produzione non è dispendiosa e difficile, si usa a fini terapeutici con effetti collaterali minimi rispetto ai rimedi chimici. Oh! Hear this. E lo sai. Esagerare, senza demonizzare. Yeah, legalize and we'll advertise. Lo sai com'è che va, ehi, hey. Under me sensi, under me sensi.